Il re Antioco, intanto, percorreva le regioni settentrionali e seppe che c'era in Persia la città di Elimaide, famosa per ricchezza e argento e oro, che vi era un tempio ricchissimo, dove si trovavano armature d'oro, corazze e armi, lasciate là da Alessandro, figlio di Filippo, il re macedone che aveva regnato per primo sui Greci. Allora vi si recò e cercava di impadronirsi della città e di depredarla, ma non vi riuscì, perché il suo piano fu risaputo dagli abitanti della città, che si opposero a lui con le armi. Egli fu messo in fuga e dovette partire di là con grande tristezza e tornare in Babilonia. Poi venne un messaggero in Persia ad annunciargli che erano state sconfitte le truppe inviate contro Giuda, che Lisia si era mosso con un esercito tra i più agguerriti, ma era rimasto sconfitto davanti a loro, e che quelli si erano rinforzati con armi e truppe e bottino ingente, riportato dagli accampamenti che avevano distrutti. Che inoltre avevano demolito l'idolo da lui innalzato sull'altare in Gerusalemme, che avevano circondato con mura alte come prima il santuario, e anche Bet Zur, che era una sua città. Il re, sentendo queste novità, rimase sbigottito e scosso terribilmente. Si mise a letto e cadde ammalato per la tristezza, perché non era avvenuto secondo i suoi desideri. Rimase così molti giorni, perché si rinnovava in lui una forte depressione e credeva di morire. Allora chiamò tutti i suoi amici e disse loro: «Se ne va il sonno dai miei occhi, e ho l'animo oppresso dai dispiaceri. Ho pensato in quale tribolazione sono giunto, in quale terribile agitazione sono caduto, io che ero sì fortunato e ben voluto sul mio trono. Ora mi ricordo dei mali che ho fatto in Gerusalemme, portando via tutti gli arredi d'oro ed argento che vi erano, e mandando a sopprimere gli abitanti di Giuda senza ragione. Riconosco che a causa di tali cose mi colpiscono questi mali, ed ecco, muoio nella più nera tristezza in paese straniero». Poi chiamò Filippo, uno dei suoi amici, lo costituì reggente su tutto il suo regno, e gli diede il diadema e la veste regia e l'anello con l'incarico di guidare Antioco suo figlio e di educarlo al regno. Il re Antioco morì in quel luogo, nel 149. Lisia fu informato che il re era morto e dispose che regnasse Antioco figlio di lui, che egli aveva educato fin da piccolo, e lo chiamò Eupatore. Ora coloro che risiedevano nell'Acra impedivano il passaggio degli Israeliti intorno al tempio e cercavano di molestarli continuamente e di sostenere gli stranieri. Giuda si propose di eliminarli e radunò in assemblea tutto il popolo per stringerli d'assedio. Si organizzarono dunque e posero l'assedio attorno all'Acra nell'anno 150 e Giuda fece costruire terrapieni e macchine. Ma alcuni di loro sfuggirono all'assedio e si unirono ad essi alcuni rinnegati di Israele e andarono dal re e gli dissero: «Fino a quando non farai giustizia e vendetta dei nostri fratelli? Noi siamo stati lieti di servire tuo padre e di comportarci secondo i suoi comandi e di obbedire ai suoi editti. A causa di questo, i figli del nostro popolo hanno posto assedio alla fortezza e si sono estraniati da noi. Inoltre uccidono quanti di noi capitano nelle loro mani e si dividono i nostri averi. E non soltanto contro di noi allungano le mani, ma anche su tutto il tuo territorio. Ed ecco, ora hanno posto il campo contro l'Acra in Gerusalemme per espugnarla e hanno fortificato il santuario e Bet Zur. Se tu non sarai sollecito nel prevenirli, faranno peggio e non li potrai più arrestare». Il re si adirò quando ebbe sentito ciò e radunò tutti i suoi amici, comandanti dell'esercito e della cavalleria. anche dagli altri regni e dalle isole del mare gli giunsero truppe mercenarie. Gli effettivi del suo esercito assommavano a 100.000 fanti, 20.000 cavalli e 32 elefanti addestrati alla guerra. Passarono per l'Idumea e posero il campo contro Bet-Zur. Attaccarono per molti giorni e allestirono macchine, ma quelli uscivano, le incendiavano e contrattaccavano con valore. Giuda allora levò il campo dall'Acra e lo trasferì a Bet-Zaccaria, di fronte al campo del re. Ma il re si mosse alle prime luci del mattino e trasferì lo schieramento con impeto lungo la strada di Bet-Zaccaria. Le truppe si disposero a battaglia e suonarono le trombe. Posero innanzi agli elefanti succo d'uva e di more per stimolarli al combattimento. Distribuirono le bestie tra le falangi e affiancarono a ciascun elefante 1.000 uomini protetti da corazze a maglia e da elmi di bronzo in testa e 500 cavalieri scelti disposti in ordine intorno a ciascuna bestia. Questi, in ogni caso, si tenevano ai lati della bestia e quando si muoveva si spostavano insieme, senza allontanarsi da essa. Sopra ogni elefante vi erano solide torrette in legno, protette dagli attacchi, legate con cinghie, e su ogni torretta stavano 4 soldati che di là bersagliavano e un conducente indiano. Il resto della cavalleria si dispose di qua e di là sui due fianchi dello schieramento per terrorizzare i nemici e proteggere le falangi. Quando il sole brillava sugli scudi d'oro e di bronzo, ne risplendevano per quei riflessi i monti e brillavano come fiaccole ardenti. Un distaccamento delle truppe del re si dispose sulle cime dei monti, un altro nella pianura, e avanzavano sicuri e ordinati. Tremavano quanti sentivano il frastuono di quella moltitudine e la marcia di tanta gente e il cozzo delle armi. Era veramente un esercito immenso e forte. Giuda, con le sue truppe, si avvicinò per attaccare lo schieramento e caddero nel campo del re 600 uomini. Eleazzaro, chiamato Awaran, vide uno degli elefanti protetto di corazze regie sopravanzare tutte le altre bestie e pensò che sopra ci fosse il re. Volle allora sacrificarsi per la salvezza del suo popolo e procurarsi un nome eterno. Corse dunque là con coraggio attraverso la falange e colpiva a morte a destra e a sinistra, mentre i nemici si dividevano davanti a lui, ritirandosi sui due lati. Egli si introdusse sotto l'elefante, lo infilò con la spada e lo uccise. Quello cadde sopra di lui ed Eleazzaro morì. Ma vedendo la potenza delle forze del re e l'impeto delle milizie, i giudei si ritirarono. Allora i reparti dell'esercito del re salirono per attaccarli a Gerusalemme e il re si accampò contro la Giudea e il monte Sion. Fece pace con quelli che erano in Bet-Zur, i quali uscirono dalla città non avendo più vettovaglie per sostenere l'assedio. La terra infatti era nel riposo dell'anno sabbatico. Il re si impadronì di Bet-Zur e vi pose un presidio a guardia. Intanto si accampò contro il santuario per molto tempo e allestì terrapieni e macchine, lanciafiamme, baliste, scorpioni per lanciar frecce e fionde. Anche i difensori opposero macchine alle loro macchine e i combattimenti durarono molti giorni. Ma non c'erano più viveri nei depositi, poiché era in corso l'anno sabbatico e coloro che erano arrivati in Giudea per sfuggire ai pagani avevano consumato il resto delle provviste. Furono allora lasciati pochi uomini nel santuario, perché li aveva sorpresi la fame, e gli altri si dispersero ciascuno al suo paese. Lisia poi venne a sapere che Filippo, designato dal re Antioco ancora in vita, per educare Antioco suo figlio e prepararlo al regno, era tornato dalla Persia e dalla Media. C'era con lui l'esercito partito con il re, ed egli cercava di prendere in mano il governo. Allora mostrò fretta e accennò di voler partire e disse al re, ai comandanti dell'esercito e ai soldati: «Noi ci esauriamo di giorno in giorno. Il cibo è scarso e il luogo che assediamo è ben munito, mentre gli affari del regno ci premono. Ora dunque offriamo la destra a questi uomini e facciamo pace con loro e con tutto il loro popolo, e permettiamo loro di inseguire le loro tradizioni come prima, proprio per queste tradizioni che noi abbiamo cercato di distruggere, essi si sono irritati e hanno provocato tutto questo». La proposta piacque al re e a tutti i capi, e mandò a negoziare la pace con loro, ed essi accettarono. Il re e i capi giurarono davanti a loro, ed essi a tali patti uscirono dalla fortezza. Ma quando il re fece l'ingresso sul monte Sion e vide le fortificazioni del luogo, violò il giuramento che aveva fatto e impose la distruzione delle mura all'intorno. Poi partì in fretta e fece ritorno ad Antiochia. Vi trovò Filippo, padrone della città, gli fece guerra e si impadronì della città con la forza.